boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Comincia una nuova settimana, sì. I bambini sono reduci da weekend devastanti, Drago, con trasferte in auto di ore e ore in coda ai caselli verso il mare, o di ritorno dal mare, o verso la montagna, o di ritorno dalla montagna, o verso la campagna, o di ritorno dalla campagna. Tutto quanto, anche sì, il lago. Sì, sì, una tragedia vera. La fai veramente troppo tragica, ma perché? Da che mondo è mondo, se ci si sposta bisogna stare in macchina, se c'è traffico bisogna stare in coda, i bambini si divertono. Sì, però io mi ricordo che quando ero veramente piccolo, quelli lì erano i momenti in cui pianificavo cose orrende, come le stragi della famiglia, cose del genere. Io guardavo le altre macchine, mi distraevo, facevo confronti sulla lunghezza delle macchine, ad esempio. Ci soffrivo quando passavo una macchina più lunga della mia. Infanzia difficile la tua, Ma no, figurati, l'infanzia è un'epoca di grande competitività. Ti ricordi quelle figurine, ad esempio? La gara, chi ne aveva di più? Cielo manca. Bambino ministro Tremonti, vuoi giocare a figurine con noi? Io non ho mai capito chi gioca con le figurine Panini. Io ho giocato con le figurine Panini, però non capisco perché un adulto debba continuare a giocare con le figurine Panini. Vabbè, ma che spocchia! Si vede che il bambino ministro Tremonti non è competitivo, a differenza di tutti gli altri bambini. Strano, per un ministro così che si occupa di economia. Però da bambino è normale, in realtà, volere avere più figurine degli altri o volere che il tuo papà abbia la macchina più lunga degli altri, o no? In effetti è in corso una gara mondiale tra il bambino Mohammed bin Rashid Al Maktoum, l'emiro di Dubai, e il bambino Roman Abramovic, il presidente del Chelsea. È una gara a chi ce l'ha più lungo? Lo yacht. Accidenti, ma se l'auto è un simbolo fallico, lo yacht cos'è? La gara di yacht è molto coinvolgente perché non ha mai una fine, capito? Prima che il bambino russo varasse il suo nuovo Eclipse lungo 162 metri, lo yacht più lungo del mondo era del bambino di Dubai, che ne aveva uno di 160 metri. I bello, mia barca più lunga, festeggiamo con vodka. Alarm! Cane russo infedele bastardo, la lapidazione, alarm! Beh, 2 metri di differenza. Secondo te Abramovic l'ha fatto apposta? Certo, i bambini russi sono ancora più competitivi degli altri. Dopo 70 anni di comunismo, Drago, gli sembra tutta una grande novità. Quindi adesso il povero bambino emiro di Dubai deve mangiarsi il turbante come un rocker duke arabo. Eh no, è quello il bello. Dopo aver saputo la notizia, il bambino emiro è corso ai ripari e ha allungato lo yacht. Ma che yacht è? Uno yacht flessibile? Chiediamolo al bambino Marchionne. Lui ne sa qualcosa di mezzi di trasporto flessibili. Siamo totalmente flessibili, aumentiamo in risposta al mercato. Sentito? Lui aumenta la lunghezza dello yacht a seconda del mercato e quindi l'emiro ha fatto costruire un pontile supplementare, ma non solo, anche un'apparecchiatura radar a prua, il tutto per aumentare di 220 centimetri il suo Dubai, la sua barca. E ora l'emiro ce l'ha più lungo di Abramovic, di 20 centimetri. Alarm! 20 centimetri! Beh, complimenti. Nemmeno il bambino Rocco Siffredi potrebbe dire altrettanto, no? Se ce l'hai piccolo, vai dappertutto e lo usi come ti pare. Tuo papà ha il fuoristrada nero e il mio ha un cammello d'argento. Tuo papà lavora al ministero e il mio fa le pizze di vento. Tuo papà ha un orologio firmato? Il mio chiede l'ora agli gnomi. Tuo papà è un ingegnere avvocato? Il mio è un domatore di fiumi. Tuo papà ha 1000 azioni di borsa? Il mio ha una borsa da spesa. Tuo papà ha 2 auto da corsa? E il mio corre a piedi in discesa. Insomma, ho capito, tuo padre è più ricco, più bello, vincente, più grande, potente, più forte, più duro, più fiero del mio. Forse è vero, però tu non conosci mio zio. Ricreazione! Oh là, il magico momento in cui i bambini possono finalmente esprimere la loro vera essenza, e cioè energia e dinamismo. Appunto, certo. Oh. I bambini però, perché noi invece preferiamo, ahimè, fumare. Sì, fammi accendere, va. Toh. Ecco. Certo, noi non ce la facciamo mica a correre così, guarda come si scalmanano. Cappa, però possiamo anche provarci, eh. Solo che credo che poi sputare i polmoni davanti ai bambini non sarebbe un bello spettacolo per nessuno. Sì, però guarda che spettacolo, che meraviglia. Giocano, si divertono senza litigare. Insomma, litigano solo nelle aule chiuse. E come diceva Conrad Lorenz, sai, il famoso etologo, certo, no? Etologo. In cattività si diventa aggressivi. Invece quando possono correre, sfogarsi, sudare, le vibrazioni negative stanno alla larga. Oddio. Ma cosa oddio? È inutile che fai il cretino, Drago. Non faccio il cretino, oddio. Tutti sanno che cosa sono le vibrazioni negative. Sì, sì. E qui ora di vibrazioni negative non ce ne sono. Poi testina, t'ho detto che è mia, eh? Ecco. Poi è inutile che ti agiti, tanto non sai parlare. Ecco, e questo è come le chiami, good vibration. No, no, vabbè, questo è solo il bambino Al che rovina l'atmosfera, come sempre. Andiamo a vedere cosa sta facendo, chi sta vessando stavolta. Bambino Albino, cosa stai facendo? Perché urli? Alberto, Albino vabbè. È un'altra cosa, no? Albino era Andy Warhol. Chi? Andy Warhol, era Albino. Ma no, aveva la parrucca Andy Warhol. Bianca, però, era una parrucca. Una parrucca albina. Vabbè, sì, vabbè, ma tu sai cosa vuol dire Albino? Albino è bambino per i capelli chiarissimi, no? Un biondo biondo? Sì. Non sempre albino, uno può essere biondo senza essere albino. Spesso albino. Vabbè, no, è una questione di melanina, comunque andiamo avanti. Allora. Allora, Alberto, tu cosa facevi prima? Gridavi, qui eravamo tranquilli, che ci godevamo le nostre belle good vibrations dei bambini che giocano all'asilo felici. Ma gridavo io. Sì, un attimo fa gridavi. Dicevi a un altro bambino più piccolo di te che una macchinina era tua, non lo so cos'era. Ma non stavo gridando. Ah no, cosa facevi? È lui che è sordo muto. Vabbè, ma se è sordo allora è inutile gridare. Ho capito. Ma quando sei lì non è che stai a pensare, ah, questo che è sordo, allora tu le devi incutere un po' di timore, no? Allora urli, lui guarda, perché lui vede gli atteggiamenti anche se non sente. Sì. E vede il viso aggressivo, no? Ho capito, come i cani che non capiscono le parole ma capiscono il tono. Vabbè, ho tutto capito. Chiaro, Albertuzzo. Alberto, senti, su. Ma la macchinina di chi era alla fine? Adesso è mia. Adesso? Prima di chi era, scusa, invece? Prima c'era un dubbio che poi si è risolto a favore mio. Sì, però scusa, che cosa te ne fai della macchinina del povero bimbo sordomuto? Perché è la sua, tu ne hai già tante, scusa. Beh, certo che ne ho tante, ne ho 658. Vedi? Beh, un numero impressionante, Albertuccio. Ma che te ne fai di 658 macchinine? Insomma, guarda che c'è una gara in corso, eh. Una gara? La gara di chi ha più macchinine. Tra i bambini all'asilo. Alla fine siamo rimasti in tre a sfidarci. Adesso sono in testa io. Bravo. Però stasera rischio, eh. Stasera? Eh sì, perché stasera ce ne sarà già un altro. È una lotta così. Senza confini. Come le aste di eBay. Non è che mi posso rilassare. Perché qui tutti sono alla ricerca di macchinine. È proprio macchinine, così, vabbè. Vedi, capa. Questi bambini finiranno da adulti proprio come Abramovic e l'emiro del Dubai. Albertino, però, ascolta noi che abbiamo qualche anno di più. Lascia perdere la raccolta di macchinine. Tanto poi alla fine. Cosa è? No, lo so. Ah, vedi, allora smettila. Hai ragione, no, in effetti con le macchinine io mi sto stufando. Ecco. Perché sono cose da piccoli. Certo. Quelli più grandi fanno delle gare fighissime, eh? Tipo trattenere il fiato, mettersi un sacchetto di plastica in testa. Ma no, ma come? Alberto, ma non si va al pronto soccorso, eh? Però si spacca. Ma cioè... no, si spacca, si muore. Oppure anche trattenere la pipì e la cacca. No, ma questa che gara è, scusa? Non so. Questa è una gara difficile. Sì, immagino. Cioè, è una gara tesa. Tesa, sì. Solo che poi finisce tutto in vacca. In vacca, in cacca. Che vabbè, devo far la rima. E beh, a un certo punto si cede, Cioè, non è che si può andare avanti a oltranza. Capito. E cominciano a cedere i più deboli. E poi alla fine. E poi è meglio. Rimane uno. È meglio non pensarci. Comunque, vedi, alla fine anche i bambini, metaforicamente, sono sempre lì a misurarsi chi ce l'ha più lungo. Vero. Beh, facciamo anche quella di gara, Vabbè, figurati, certo. Metaforicamente, ho detto io, comunque. Ma noi lo facciamo veramente. Ecco. Solo che dopo un po' di tempo è un po' più difficile perché è arrivato un nuovo bambino. Sì. Di un paese dell'Africa, sì. Lui in Butu, e da quando c'è lui in Butu è una gara un po' più complicata per me, perché prima insomma spadroneggiavo, no? Ho capito, però Albertino, coraggio, dai, ho l'impressione che tanto col bambino in Butu perdi, quindi gioca con le macchinine, cosa vuoi che ti dica? Allora, c'è l'inferiorità di base, no? Sì. E però si può anche vincere con l'astuzia. No. Come Clay con Foreman, no? Ma cosa? Cosa fai? Saltelli sul posto? Lì io sapevo di essere più debole. Adesso la box cosa c'entra? Cosa vuol dire con l'astuzia? Se, insomma, è una questione naturale, fisica. A parte che ci sono dei prodotti tipo pomate. Ma vabbè, bambino Alberto, ma la tua età, queste cose non devi nemmeno saperle. Infatti non arrivo a quello. Uso l'astuzia. Cioè? Uso un righello truccato. capito. Un righello, perché ognuno c'ha il suo righello, toccato. Sì, ognuno è, sì, a scuola come ognuno c'ha il suo righello, certo. Come il giocatore di bowling, no? Sì. Che c'è la palla, noi abbiamo il nostro righello. Sì, okay. Con la misurazione quotidiana, vabbè. E quindi... Però, scusami, anche col righello, davanti all'evidenza, cioè si vede a occhio nudo che Mbutu, insomma, non c'è storia. Mbutu potrebbe vincere per acclamazione, tutti certo. I bambini gli battono le mani perché vince, evidentemente. Insomma, per una superiorità manifesta, hai capito? Ma cosa vuol dire? Vuol dire che ha lo yacht più lungo del tuo. Io però sto 152 macchinine. E allora? Me le metto in fila. Torniamo domani. Mandate un righello truccato a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.